Benvenuti a Dedicato! Buongiorno, mascotte! Buongiorno! Come mai è qui con noi oggi, mascotte? Che gioia! Perché oggi non c'è scuola! E lo diciamo, perché noi andiamo in onda di mercoledì, ma la nostra puntata è assolutamente registrata e questo lo diciamo oggi, perché in questo momento la mascotte è a casa per sciopero. E noi ne approfittiamo perché vogliamo fare questa puntata su proprio questi momenti che stiamo vivendo in Italia, nel mondo, perché, mascotte, sono momenti importanti, no? Sta ma succedendo. Scusi, ma quale sciopero? Come quale sciopero? Scusi, lei perché è a casa oggi? Io non lo so. Ah, ok, beh, insomma, glielo dico io, mascotte, è a scuola per sciopero perché i suoi professori, intelligentemente, hanno scioperato. E hanno scioperato per quello che sta succedendo a Gaza e con la Global Sumud Flottiglia. Quindi sono tutti a casa da scuola, lei e i suoi compagni di classe. E a noi questo fa molto piacere perché ovviamente c'è stata manifestazione e abbiamo insomma un sacco di cose da raccontarvi. Mascotte. Anche a me fa piacere, ma non perché sono a casa da scuola, per il motivo. Ah, per il motivo, quindi argomenti, mascotte, argomenti un pochino meglio questa cosa. Perché secondo me la Palestina deve essere libera, perché ci sono dei bambini che hanno ad esempio la mia età, tipo 11 anni, che non possono fare le cose che sono normali per me, ad esempio mangiare, andare a scuola, divertirsi, semplicemente stare nel loro letto a dormire, cioè non possono fare le cose che sono normali per molti bambini nel mondo. Lo so, mascotte, questa è una cosa molto grave, infatti, ma soprattutto c'è in corso già da parecchio tempo un genocidio. Che cos'è un genocidio? È un fermare un popolo, distruggere un popolo, sopprimere un popolo. Mentre una guerra, diciamo, vuole andare a modificare le sorti di un popolo, un genocidio invece lo distrugge completamente. Quindi io... No, non si fa! Io capisco, infatti, voi bambini che siete arrabbiati, ne abbiamo visti tantissimi in manifestazione di bambini, di ragazzi, e quindi sia della tua età, sia anche più piccoli. Ho visto anche bambini nei passeggini con i loro genitori, con le bandiere della Palestina, perché questo è un no globale, un no a quello che sta succedendo, ed è una cosa importantissima, perché dire no non è facile in tante occasioni, e in questa occasione le persone tutte, di qualunque età e di qualunque provenienza, quindi anche di altre popolazioni e altre culture o religioni o qualsiasi altro tipo di pensiero, insomma sono tutte insieme in piazza. E non da poco, perché effettivamente oggi è uno sciopero ed è quello del 3 di ottobre, lo possiamo dire chiaramente, sì, perché parleremo anche di altri scioperi, di altre cose che sono successe, per esempio il 22 settembre, mascotte, eravamo tantissimi anche lì, no? È stato bellissimo. Era la prima manifestazione in cui c'era così tanta gente, perché le altre manifestazioni che avevo fatto erano... con molte, molte meno persone. Erano più piccole, sì, per altri motivi. Sicuramente eravamo neanche in 100. No, non è vero, mascotte, erano manifestazioni più piccole, sicuramente per altri motivi, quindi in passato, insomma... Sì, forse eravamo un po' di più. Un po' di più di 100, sì, certo. Però non eravamo quel fiume di persone che c'erano il 22 settembre, erano... Non un fiume, era un mare. Un mare, esatto, esatto. Va bene, allora mandiamo il primo brano e poi andiamo a parlare un pochettino meglio di tutto quello che è successo. Sì. Le temps s'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit, ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça brille la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur pour que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerait nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre. Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades, ils ont peur de rêver. Ils ont peur de penser. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la différence. Ils ont peur de leur prochain. Ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Ils ont peur, peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur, peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Camarades, fils du vent. Va où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie. Si tu sais penser par toi-même, n'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. La vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Méfie-toi, le temps voudrait te corrompre car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade. Allora, Mascotte, abbiamo ascoltato Kenny Arcana, Ils ont peur de la liberté, un brano veramente eccezionale. Chi non sa il francese, se si traduce il testo, c'è tanta roba da ascoltare in questa canzone. Grande Kenny Arcana, ciao amica. Allora, Mascotte. 22 Ciao. Settembre, uno sciopero che solo a Bologna ha visto più di 50.000 persone in piazza e un corteo meraviglioso. Dopodiché ci sono state veramente molte mobilitazioni nei giorni successivi perché a un certo punto, cioè il primo di ottobre, la Global Sumud Flottiglia si è avvicinata talmente tanto a Gaza, a meno di 70 miglia, che è iniziato l'abordaggio da parte dell'esercito israeliano. Quindi le mobilitazioni in Italia sono diventate veramente tante, tante in tutte le città. A Bologna noi abbiamo anche la nostra rete dei genitori che aveva messo tende in Piazza Maggiore. È stata veramente una cosa meravigliosa. Ci sono state 35 città italiane con cortei e manifestazioni a favore della Global Sumud Flottiglia. È stato bellissimo. È stato meraviglioso. Questo solo in Italia, non parliamo del mondo, perché si è nel mobilitato. Il mondo è stato tanto grande. Eh beh sì, certo, grande come tutto il mondo. E lo slogan è blocchiamo tutto nel vero senso della parola. Se bloccate la flottiglia, che è successo? Noi blocchiamo tutto e stiamo bloccando tutto, tutto, tutto, tutto. Bene, hai capito il concetto? Il concetto è proprio quello. Poi il 2 ottobre continuano manifestazioni in tutte le città e anche lì si blocca tutto. Noi in prima persona lo sappiamo, siamo bravi. Perché dovevamo andare a casa nostra e noi non ci siamo potute arrivare. No, perché c'erano tante persone, con la macchina non si passava. Infatti, avevano bloccato tutto. Poi il 3 ottobre, sciopero generale nazionale, solo a Bologna pare fossero 130.000 persone in piazza, ci rendiamo davvero, conto? Davvero tante. Questa è una risposta non solo a Israele e alla schifezza che sta facendo sulla Palestina, ma è una risposta a tutto, al nostro governo e a come si stanno comportando, perché ci vengono a dire che noi vogliamo... Il governo si sta comportando un po' male. Un po'? Adesso ti dico. Ci vengono a dire che noi vogliamo fare un weekend lungo e noi lo vogliamo fare lunghissimo questo weekend, non lungo. Di 8.000 anni. Ecco, un weekend veramente, veramente... Lo facciamo finché non smettono di attaccare. Ecco, ma è una roba veramente allucinante. Abbiamo un governo che non tiene conto di quello che sta realmente succedendo. Quindi ci sono adesso mobilitazioni nazionali senza precedenti negli ultimi 20 anni. La gente si è svegliata e protesta. Chiaramente non mancano le tensioni, i modi di manifestare sono diversi e quindi poi le forze dell'ordine non si risparmiano e rispondono al governo che chiaramente le comanda. Quindi tutti in piazza, mascotte, medici, insegnanti, professionisti, associazioni, io. Tu, sindacati, alunni appunto di tutte le scuole e università, collettivi, cittadini e addirittura qui a Bologna anche i detenuti del carcere della Dozza hanno rinunciato a un giorno di lavoro e per loro un momento di libertà perché è un momento in cui escono dal carcere, quindi abbiamo visto veramente... cose allucinanti per quello che erano gli ultimi periodi invece di manifestazioni in Italia. Il nostro governo risponde dicendo che non pagano gli aerei per gli attivisti della sub-flottiglia italiani, non li fanno rientrare a spese nostre, coi soldi delle nostre tasse. Poi Salvini fa dichiarazioni assurde sugli scioperi, continua a non fare niente contro Netanyahu, la nostra fantastica Giorgina sta platealmente cercando degli scontri, cioè gioca a fare una divisione drastica del nostro paese, se ne frega di dover rappresentare tutti gli italiani come dovrebbe. Io qua non parlo perché sennò mi arrabbio. Anch'io sono un po' arrabbiata, diciamo che ha usato dei toni feroci, veramente brutti contro la flottiglia, e quindi contro 40 e più connazionali che sono in carcere senza nessuna colpa. Sono veramente frasi quelle che ha detto di una gravità allucinante, sia morale che etica. È una cosa abbastanza vigliacca da fare. Molto vigliacca, sì. Nel frattempo alla Camera ovviamente ci sono discussioni su questa cosa, discussioni anche molto importanti perché insomma è stato detto al ministro degli esteri che è stato abdicato al proprio dovere, non aver condannato un atto di pirateria internazionale, come stanno facendo in questo momento invece nella maggior parte dei paesi del mondo. Abbordare una nave e rapire un equipaggio è un atto illegale, questo se lo dovrebbero ricordare i nostri governanti. Quindi insomma non andiamo oltre perché abbiamo la nostra mascotte che non so magari che vuole... Mi arrabbio! Ecco, oltre ad arrabbiarsi mascotte che magari... Che faccio arg! Arg, sì, vuole dire anche qualche cosa? Faccio arg! Ok, io ho una cosa bella da dire, però la diciamo... Finalmente! Beh, no, ma è tutto molto bello quello che stiamo dicendo oggi, perché abbiamo... Sì, però comunque è molto bello che scendiamo in piazza, ma è molto brutto quello che sta succedendo. Non servirebbe scendere in piazza se non succedesse quello che sta succedendo in Palestina. Questo è vero, però devo dire che questa compattezza degli italiani contro il governo fa riflettere molto noi adulti, forse anche voi piccoli ma un pochino meno, ma noi adulti ci sta facendo riflettere. Sinceramente io non capisco molto di questa cosa. Va bene, non è ancora il tuo tempo.

Ok, beh, vogliamo dire una cosa bella, perché sì, la diciamo, in tutto questo i palestinesi, i Gazawi, sono riusciti finalmente a tornare a pescare dopo mesi di blocco anche della pesca. Perché? Perché la Global Sumud Flottiglia ha tenuto impegnato l'esercito israeliano, impedendogli di controllare illegalmente, come tutto il resto, le coste di Gaza. E la flottiglia non è riuscita ad arrivare, ma appunto, avendo tenuto occupato l'esercito israeliano, i Gazawi possono di nuovo mangiare. Quindi, insomma, direi che basta questo, già non c'è altro da dire, no, Mascot? Sì. E noi siamo felici di questa cosa. Adesso ascoltiamo un po' di contributi del nostro staff, sono arrivati a raffica, ragazzi, ne abbiamo dovuti selezionare un po'. Ecco, questa era la raffica, esatto, ne abbiamo dovuti selezionare un po' perché non ci stavate tutti, però giuriamo che non li abbiamo censurati, li abbiamo solo selezionati e un po' mescolati. Sarebbe stata una puntata di 20.000 ore se avessimo messi tutti. Esatto, ma perché in effetti il nostro staff è bello corposo, noi non ce ne rendiamo conto, ma siamo in tanti, siamo yes! in tantissimi. Ed è un bello. È un bene, che è un bello. È un bello bene. Sì, vabbè, Mascot, lei adesso scusi, è un bello bene cosa? Dove viene? Io sono, è un bello bene. Dal letto, stavo dicendo giusto quello, viene dal letto, sì, si è addormentata è e niente, il suo cervello non bene, ha... È un bello bene. Non ha ancora ricarburato, va bene. Andiamo ad ascoltare il nostro staff e quello che hanno da dire. Buonasera, lei che ne pensa della guerra in Palestina? È sicuramente sbagliata, sono super contro, però ormai ho da dire che non è più una guerra, ma è più uno sterminio. Buonasera di nuovo, lei che ne pensa della guerra in Palestina? Spero che è sbagliatissima e spero che sarà libera il più presto possibile. Secondo me è tutto sbagliato e i palestinesi mi stanno simpatici. Che la guerra in Palestina è una cosa sbagliata e che tutti dovremmo vivere come si vuole. Discorsi sul bus. Non serve a niente scioperare, i soliti sinistroidi. Chi sei tu? Sei umano? Non ci sono bandiere di fronte alle vite spezzate e civili calpestati, ma solo il sentimento che nasce urgente e insopprimibile di pace. Sia chiaro, non in mio nome. Penso che le guerre siano tutte tremende, ma la differenza tra una guerra e un genocidio è che la guerra vuole modificare il futuro di un popolo, di un paese, mentre il genocidio semplicemente lo vuole cancellare. È quello che sta succedendo ai palestinesi. E vedere che tante persone sono scese in piazza come me qualche giorno fa mi ha molto consolato, perché ho pensato che effettivamente siamo in tanti, in Italia, nel mondo, che la flottiglia è una dimostrazione di questo, insomma, che anche se i nostri governi, il nostro governo non la pensa magari come tanti di noi, noi riusciamo lo stesso a farci vedere e a farci sentire. Siamo vento che soffia, legna che alimenta, calore che cresce, fuoco che divampa, sangue che bolle, flusso che scorre, tempo che non passa mai, tempo che scorre. Siamo virgole di un infinito discorso, trascenderebili sul nostro stesso percorso, disadattati che non trovano posto. Siamo pioggia patente che cade a ferragosto, legge costituita e poi sabotata, regola istituita e bruscamente sovvertita. Siamo tradizione che resiste, filo rosso che continua. Siamo tutto e se tutto è stato detto e fatto, siamo l'occupazione che resiste ad ogni strato. Come il sole che picchia di brutto, non saremo niente ma sapremo essere tutto. Sono tutto quello contro di cui combatto, sono la sfida da cui quotidianamente vengo attratto. Di fatto sembra lo stile vincente, sembra siamo tutto ma in fondo sono niente. Liberazione dei nazi gigante perché piove governo. Osservo i passi scalpitanti di passanti stanchi. Affollano le strade tra vetrine luccicanti. Volti assenti di viandanti avvolti da diamanti. Trante pila folli succedono anche istanti. Saldi su merce scontate attirano ansimanti. Essere agli antipodi di uomini pensanti. Wonderful, very cool, si va avanti a better room. Ahimè quei bei tempi oggi come son distanti. Siamo tutto e se tutto è stato detto è fatto. Siamo l'occupazione che resiste ad ogni strato. Come il sole che picchia di brutto. Non saremo niente ma sapremo essere tutto. Perché tutto in fondo è quello che ci spetta. Oggi tutti in piazza pronti all'azione diretta. Ma che rassegnazione, niente affatto. La rivoluzione ora cammina sull'asfalto. Sull'asfalto. Tutto e niente, gente strana posse. Siamo addirittura d'arrivo e già anche in ritardo in questa fine puntata. Ciao, ciao! Mascotte. È stata una puntata meravigliosa, veramente. Grazie Mascotte di essere stata con noi. Ci siamo divertite un sacco a raccontare questi ultimi giorni, perché sono giorni veramente importanti. E grazie per insomma averli vissuti insieme a noi anche qui in studio. E noi ci sentiamo la settimana prossima per un'intervista importante. Intervisteremo la mamma di Vittoria Arrigoni, Egidia Beretta, e quindi a mercoledì prossimo, sempre alle 13. Ciao! Su Radio Città Fujiko. Yeah! Ciao!